piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Quando chiedi a una donna di uscire, lei ti risponde sì, ma come amici è un casino. Se lei rispondesse di sì, dovrei passare il primo appuntamento a chiedere tutto di lei, fingendo che ogni cosa che dice mi appassiona. Sì, sono stupendi. Poi dovrei rassegnarmi al fatto che ogni volta che ci vediamo, lei rifiuterebbe ogni tipo di contatto fisico. Cos'è quella cosa lì? È una casa. Una casa? Sì, è una casa. No, è impossibile, non è una casa. No, no, ha un tetto, una porta, è proprio una casa. Per non parlare del fatto che se mi chiedesse... Non è che mi porti a fare shopping. La dovrei accompagnare. Gli chiederebbe consigli senza ascoltare davvero il mio parere. Non so, secondo me... Prova anche questo, andiamo. Poi dovrei metabolizzare il fatto che nel caso le chiedessero di noi, lei risponderebbe sempre... Siamo soltanto amici. E ovviamente in mia presenza sarebbe ancora più difficile. Ma adesso comprendi, siamo soltanto amici. Cioè, penso che tra me e te ci possa essere qualcosa. Qualcosa. E infine, nel caso in cui la portassi in posti romantici immaginando di baciarla, dovrei ogni volta accettare il fatto che non ci sarà nessun bacio. Mi raccontava recentemente un'amica di una sua storia d'amore parallela al suo matrimonio. Aveva una storia di passione con un uomo, poi quest'uomo, anche lui era sposato, a un certo punto si è lasciato con la moglie. Lei dice: che bello, finalmente, convoleremo la nostra sola amore, lo dico anche io a mio marito e poi stiamo insieme. Ma in realtà quest'uomo, una volta si è trovato single, l'ha frenzonata. È cominciato a uscire con lei, non l'ha mai portata a casa sua, al cinema, a teatro, a fare belle passeggiate, insomma... Quello che lei sperava è naturalmente esaurito in una sorta di amicizia affettuosa. E lei piangeva, cioè mi ha frenzonato, pensava, l'uomo della mia vita. Io sono andato a riflettere su questo tema e mi sono reso conto che il termine, il mio è un appunto lessicale, essere frenzonata per una donna di 45 anni, non so bene quanto avesse esattamente da questo range, significa aver attinto a un lessico giovanilista per definire una situazione abbastanza tipica anche nel mondo degli adulti. Due adulti che si piacciono, hanno avuto una storia, o uno dei due è in procinto di pensare che l'altro possa avere una storia, improvvisamente però avviene che per l'altro è solamente un buon amico. Allora, la friend zone per gli adulti esiste in due circostanze. Inizia la storia, a un certo punto la storia per uno aveva un significato diverso che dall'altro, dice: beh, sì, rimaniamo buoni amici, e quello, pur di stargli vicino, rimane buon amico. Oppure c'è un corteggiamento spietato della collega, dell'amica, della persona vicina, ma a un certo punto c'è sempre sbattere sul muro che ti considera un amico. Ma il termine frenzonare però è un termine attinto da una sorta di immaginario vastissimo. Se andate su YouTube, cercate frenzone, frenzonare, beh, vedete che è diffusissimo. Esistono decaloghi, regole. I ragazzini soffrono tantissimo del fatto che immaginano storie d'amore fantastiche con le loro coetanee, ma in realtà per le loro coetanee sono soltanto degli amici. Sì, suggerivano prima che quando ti dicono sei come un fratello, di dire che ami l'incesto. Friendzone? Intendi quel breve periodo, 9 anni, in cui ho sperato invano che il mio fighissimo miglior amico si rendesse conto che se cercavo di farlo mollare con tutte le tipe con le quali si metteva, e se cercavo di baciarlo mentre avevo casualmente inserito Friends with Benefits nel lettore DVD, non era perché ero premurosa e dolcissima, ma in lista d'attesa per donargli l'utero e lui non ha mai capito un cazzo? No, non so di che cosa tu stia parlando. 800240024. Vorrei definire oggi in termine contemporaneo, riferendomi naturalmente al mondo degli adulti, alle persone che ascoltano abitualmente questa radio, come ancora oggi ci troviamo schiavi di questa sorta di esilio, di questo sconfinamento nella friend zone. Vi è mai capitato di essere frenzonati? Avete frenzonato una persona che vi era molesta con le sue attenzioni, che chiaramente intuivate, non certo di sola amicizia? È una chiave di uscita fantastica da una situazione che in qualche maniera comincia a diventare limacciosa, fastidiosa, pesante, insomma quella che ti chiama, che ti cerca, ti vorrebbe vedere, sai benissimo che in realtà vorrebbe rinfocolare quello che magari una volta c'è stato, in un momento di ubriachezza, in un momento di solitudine, in un momento di follia, che vorrebbe continuasse magari per tutta la vita. Ma siamo pazzi? Ma sei solo un'amica, cosa hai pensato? Ecco, come uscite o come entrate voi nella friend zone, voi adulti, perché i ragazzini ce l'hanno ben presente. 800240024. Ti rendi conto, vero, che non potremo mai essere amici? Perché no? Beh, ecco, e guarda che non ci sto provando in nessunissimo modo. Uomini e donne non possono essere amici perché il sesso ci si mette sempre di mezzo. No, non è vero. Io ho tantissimi amici maschi e il sesso non c'entra per niente. Non è così. Sì, invece. No, invece. Sì, invece. Tu credi che sia così? Stai dicendo che io ci vado a letto senza accorgermene? No, sto dicendo che loro vogliono venire a letto con te. Non è vero. È vero. Non è vero. È vero. E come lo sai? Perché nessun uomo può essere amico di una donna che trova attraente. Vuole sempre portarsela a letto. Allora stai dicendo che un uomo riesce a essere amico solo di una donna che non è attraente? No, di norma vuole farsi anche quella. Ma se lei non vuole venire a letto con te? Non importa, perché il click del sesso è già scattato, quindi l'amicizia è ormai compromessa. 800 24 00 24, non abbiate paura di esporvi. Mi serve in questo momento di riempire un vuoto nella narrazione della contemporaneità. Vi ripeto, gli adolescenti sanno esattamente che essere frenzonati è uno degli ostacoli più grossi alla libera espansione della propria affettività, della propria sensualità e della propria sessualità. Ragazzine e ragazzini usano frenzonare. La ragazzina si fa il ragazzino trastullo da portarsi indietro, da portarsi in giro, da portare a tutte le feste, che l'accompagni, che la porti a spasso e che le sia vicino, che le porga la spalla, ma non vuole assolutamente cedere a lui il fiore più intimo della sua femminilità, perché dice: sai, io che me ne faccio un fidanzato, mi serve un amico magari per trovarmi dei fidanzati. Alla stessa maniera il ragazzino sa benissimo che vanno frenzonate quelle amiche troppo pressanti, che a lui in realtà non piacciono, che nemmeno l'ubriaco si farebbe, che però in fondo gli conviene, perché quando sta solo, quando è afflitto, quando è disperato, quando sta proprio per sbattere la testa, gli conviene avere un'amica. Ma nel mondo degli adulti cosa diviene questo? Mi interessa capirlo, mi interessa saperlo, perché esistono comunque dei luoghi comuni che avverto, che percepisco, che colgo nei discorsi, nei racconti, nelle sottotracce che vedo nelle fiction televisive, nei film, nei telefilm, che mi danno l'idea di questo, mi danno l'idea che comunque esiste una scusante. Potrebbe essere questa: le donne amano dire che un uomo è narcisista quando non se le calcola, oppure è crypto gay quando esci 10 volte con un uomo, e quando lo inviti a fare gli weekend insieme, e quando organizzi la vacanza con lui, e quando a tutti gli aperitivi ce l'hai accanto, quando gli hai raccontato anche la più intima pulsione delle tue contrazioni intime e gli dai veramente il referto del tuo ginecologo che tutto è a posto, e lui ancora fa finta di niente, ti considera ancora come l'amica migliore e ti racconta delle sue vacanze, del suo lavoro, dei suoi passatempi, dici: beh, sicuramente gay. No, ti ha frenzonato. Devi capire che per lui in quel momento potrebbe avere altre 50 donne. Tu non gli interessi, non gli piaci, non sei la persona che vuole. Soprattutto è talmente oppressiva la tua attenzione che vuoi fare di lui il padre dei tuoi figli, l'uomo che ti seguirà tutta la vita, che non ti vuole e ti ha frenzonato. Cominciamo ad acquisire anche noi qualcosa che i ragazzi hanno studiato, hanno un laboratorio aperto sulla frenzone. Cominciamoci anche noi a dare delle risposte. Siamo stati mai frenzonati? Amiamo frenzonare le persone che giudichiamo sensualmente e emotivamente oppressive? 800 24 00 24. Sono entrata nel gruppo di ascolto per frenzonati anonimi creato da Mirko. Mai farsi dare consigli dalla ragazza che ti piace su come rimorchiare. Ma secondo te Alessandra ci starebbe se la invitassi al concerto di Gigi D'Alessio? 2. Non ascoltare mai e poi mai i suoi problemi con i ragazzi. Hai perfettamente ragione, Stefano non doveva darti buca al cinema l'altra sera. E 3. Disponibile ma non Zerbino. Ma no, che non mi pesa portarti lo zaino per le prossime 10 ore di trekking. Hai dimenticato una regola: evitare gesti che le facciano dire cose come "che dolce" o "che tenero". Povero Peter, trattato dalle sue amiche come una specie di bambolotto perché sembra un ragazzino delle medie. Che cucciolo! E poi c'è Beatrice, una ragazza timidissima. Perché vi faccio ascoltare questi racconti di ragazzi? Potete imparare. Dovete immaginare che loro sono avanti rispetto alla popolazione adulta, stanno già codificando quelli che sono le zone oscure, i terreni limacciosi, i buchi neri nell'affettività, nella relazione, nei desideri di coppia. Già loro sono precursori di quello che sarà il futuro, noi ci troviamo in questa zona intermedia, capiamo da loro. Per gli uomini, quando una donna ti ha frenzonato, beh, la donna ti ha frenzonato quando tu l'hai invitata 50 volte a cena, 80 volte a fare le passeggiate, 300 volte a fare le escursioni, 3.000 volte gli hai parlato di te, 800.000 volte gli hai in qualche maniera detto che ha un buon profumo, hai provato a prenderla sotto braccio, a stringerla, a abbracciarla, è sempre rimasta divertente, poi ti tratta come dolce, carino. Quando sei dolce, una donna dice che sei dolce, sei automaticamente frenzonato. Fatti una ragione, non ci perde più tempo. Ian, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Frenzonato o frenzonatore? Ex frenzonato. Bene, allora, tu quanti anni hai, Ian? 34. Ecco, quindi sei già un'età non più proprio bambinissimo, anche se è molto giovane. Capiamo come avviene nel mondo degli adulti, che ancora non è stato codificato. Nessun sociologo, nessun antropologo della contemporaneità ha definito delle regole per friendzone adulta. Oggi parliamo di friendzone adulta. Descrivi la tua situazione. Perfetto, allora io attualmente sono fidanzato da 6 anni, quindi diciamo che non sono più parte del problema, ma essendo lo stato in passato mi sento insomma di poter... Ecco, dire racconta qualcosa. Esattamente il doloroso calvario della tua friendzone. Il cavallo friendzone è quello che è stato già spiegato, che comunque sia, in ogni caso, quando uno si trova ad avere un'amicizia stretta con una persona che poi si trasforma in qualcos'altro da una parte sola, poi ecco le aspettative che uno ci si crea, che siccome si crea tutto il resto. Ti aiuto, visto che la prendi larga, eri attizzato, sì, da una tua amica. Sì, esattamente. In maniera, diciamo, roboante. Esatto. Quasi... E in che maniera glielo facevi capire? Ma invitandola a concerti, invitandola da me, insomma, in tutte le... La invitavi a casa tua, andiamo più nello stretto. Sì, ecco, a casa mia per delle ripetizioni di inglese, di cui lei aveva bisogno, insomma, il classico... E le facevi, diciamo, sentire la presenza mentre le davi le lezioni di inglese, lei fingeva nulla. Non fisicamente. No, la presenza è in senso astratto, chiaro, la presenza è un fantasma che allucina il desiderio maschile, chiaro, mica voglio... Esattamente, un tempo parlavamo di servi della gleba, noi di una certa età, poi adesso la chiamano friendzone, ma all'epoca era... Eri il suo servo della gleba, il suo zerbino, eri zerbinato completamente. Esattamente, poi arriva il momento in cui uno... Quindi le facevi ripetizione, che altro facevi per lei? Ma ovviamente andavo a prendere in macchina... Autista fisso, sì. Sì, poi? Assolutamente. No, descrivi poi... il servaggio in tutte le sue declinazioni, è importante. Bene, quindi... Cena, sempre cena, pagavi sempre te, naturalmente, sempre. Bevute, perché a cena non siamo arrivati al... Ma nemmeno la cena ti concedeva? No, parlavamo anche di biglietti per l'autobus quando ce n'era... Sempre il biglietto, no, sì, va bene. Insomma, tutta questa serie di cose. Scusa, una cosa importante, lei ti confidava le sue pene d'amore? Assolutamente. Cioè lei ti dice, guarda, oggi sono tanto dolorante perché ieri mi ha sconquassato questo mio amante. Tu dici, sì, posso capire, vado in farmacia, sì, ti prendo la cremina lenitiva, queste cose. Esatto, poi quando però non c'era consapevolezza dall'altra parte... Però uno, ma lo scopo tuo qual è? Volevi fidanzarti, sposarti o semplicemente sbatterla per una notte e poi finiva così? No, il mio scopo è vedere cosa avrebbe portato... Scusa la crudezza, ma parliamo di istinto animale qua, non parliamo perché... È quello. Quindi quello, di quel va descritto in questa maniera. Io prendo le distanze dalla lettura maschilista, ma siamo vittime in questo caso dei nostri istinti. Uno arriva a essere schiavo di una donna perché il desiderio belluino è talmente forte che va sopra la dignità, naturalmente. Assolutamente, però poi arriva, io penso che arrivi anche il momento della consapevolezza e della mancanza di... Redderazione, mi hai capito? E di chiarezza, perché secondo me è tutto lì, è tutto lì. Buongiorno, gliel'hai detto finalmente cosa sono per te? Sì, assolutamente, però poi non c'era... ma io credevo fossimo amici, no? La classica risposta che arriva, certo, in questi casi. Come no? Ma ero con gli amici, non si fanno queste cose, quindi... Roviniamo un'amicizia. Roviniamo una così tutto. Bella amicizia, è un peccato. Esatto. E magari se la faccia rovinare da altre 300 persone, però con te non potrai rovinare l'amicizia, chiaro. E quindi alla fine niente, l'amicizia non c'è più, non è rimasto più nulla. Quindi tu hai capito al momento, allo sgoccio, che poi non c'era niente da fare, hai smesso di fare il servo. Sì, e poi ho visto che da parte sua non c'era praticamente null'altro. Lei, grazie, lei c'aveva un golf gratis, figura. Esatto. Vabbè, grazie, Ian, hai avuto coraggio, prego. Sei il primo che ha gettato, diciamo, giù da questo velo di riservatezza l'idea che la friendzone esiste anche per gli adulti. Federico. Buongiorno. Ciao. Friendzonato o friendzonatore? Ma entrambi. Comincia la parte passiva, quella più dolorosa da raccontare. Quando sei friendzonato, io cerco di, per evitare di sentirmi sconfitto, visto che parliamo di istinti. Fa finta che scherzavi? No, io cerco di portarla dal punto di vista platonico, cioè... non c'è alternative, no, perché... Estensi ormoni, dico, ragazza mia, sappi che quando vuoi, anche dandoti del voi, però intanto giochiamo con la testa. Sì, però sì, ho capito, ma digli quando vuoi. Lei lo sa benissimo quando vuole, ti vede con la bava alla bocca, cammini a tre gambe, no, lo sa che quando vuole. No, è lì il bello, niente bava alla bocca, sì. Essere, come dire, volare alto e far finta che comunque non è molto importante. Allora veramente fai la parte di quello che è disinteressato alle donne, cioè mi piace fare l'accompagnatore. No, io sono interessato a nel caso specifico, io quando rischio, sono frenzonato, non perdo l'interesse, mantengo i segnali accesi dicendo che comunque guarda che non succede proprio niente. Quindi cioè, tu aspetti un momento di cedimento, no? Magari che lei è abbandonata da un amante, abbandonata da un fidanzato. Aspetto di cedimento, nel momento di cedimento però devi avere la forza di ricordare a lei che siamo... Le comunicano che ha perso tutti i suoi soldi, ha un lutto in famiglia, prendi un momento di disperazione e ti infili. Nel momento in cui lei è vulnerabile, il forse sarà masochismo, quello che vuoi, ma io gli dico guarda che comunque siamo solo amici, prima magari di alzargli la gonna, capisci? Cioè è il momento della vabbè scusa, ma come quello che si castra che fa rispetto alla moglie, vabbè, che annusare, adesso aspetta 5 minuti ancora, ma lei che tempo, lei trova un altro subito dopo 30 secondi, non pensare che le donne abbiano tutta questa rimanga così male, dice vabbè peggio per te, adesso te la davo, peggio per te. Perché c'è un po' di amor proprio anche, anzi molta amor sì, proprio, ma guarda, stesso, credimi, c'è molta auto esaltazione in questo. Ahimè, quando sei frenzonato ormai sei con le spalle al muro, non se ne esce la frenzone se non con un gesto eroico di distruzione, è come Sansone che muore con tutti i filistei, dici qualcosa di epico. Tanto lei non te la darà. Ma tu sei, io ti capisco, tu sei un conservatore, sei quello che comunque spera sempre nella ripresina. Quindi tu avrai un ventaglio, diciamo, un plafond di persone che ti hanno frenzonato, le tieni in caldo un po' tutte, sperando che prima o poi, vuoi per una situazione astrologica, vuoi climatica, vuoi per ormonale, che a un certo punto di questa decina che tieni in caldo, che ti hanno frenzonato, quindi ti hanno fatto soffrire, una improvvisamente dice: guarda, oggi mi è apparso Padre Pio e mi ha detto devi darla a lui. E speri succeda questo. Ti auguro che possa accadere. Diciamo che la statistica è dalla mia parte. Ah beh, certo, perché è frenzonate, ma ci vuole male, è un sacco di tempo, ci vuole. Fermola, Federico. 800 24 00 24. Però vorrei sapere anche il cotè femminile. Se no viene una bieca trasmissione alla barca. Gli uomini parlano delle loro millanterie da miles gloriosus. Non è così. Donne, voi che frenzonate, e voi che siete state dolorosamente frenzonate, ho visto donne piangere per essere frenzonate, che l'uomo che amano continua a trattarle da amiche, non si capiscono perché, si guardano allo specchio, sono bella, e piaccio, mi vengono tutti dietro, ho un sacco di like ogni volta che metto la mia foto su Facebook, perché proprio questo non si accorge, sono femmina, voglio che me lo raccontate. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. Ehi ragazzi e ragazze, ma specialmente ragazzi, siete in una situazione friendzone spietata e non sapete come uscirne? Partiamo subito con una bomba, ma siete sicuri di essere voi quelli frenzonati? Badate attentamente ad alcune cose. Come mai la ragazza che vi piace vi manda i cuoricini in chat scrivendo semplicemente sei il miglior amico che possa avere? Deriva solo dal fatto che è una persona orribile e vi ha frenzonati senza nemmeno sapere i vostri sentimenti? Ma aspettate un attimo, avete mai parlato dei vostri sentimenti alla ragazza che vi piace? Cosa diresti alla persona che ti piace? Naturalmente poi la rete è piena di tutorial, di esperti, di come si esce dalla friend zone, come non si entra nella friend zone, come comportarsi nella friend zone, ma naturalmente sono consigli che vanno personalizzati. Ogni friend zone ha una sua caratteristica. Abbiamo avuto il privilegio e la fortuna di avere un'ascoltatrice, ci ha chiamato in questo momento, che è un'esperta friendzonatrice. Claudia, buongiorno. Ciao Nicoletti, buongiorno. Tu ciao, sei un'esperta in friend zone. Sì, ho scoperto da poco, ho avuto questa consapevolezza di essere una frenzonatrice seriale. Cominciamo a capire, come te ne sei accorta da poco? Com'è possibile? Da poco, perché inizialmente io pensavo di essere così in maniera candida, di trovare amicizie maschili, cosa che in realtà purtroppo non è possibile, perché di base c'è sempre quella tensione erotica tra uomo e donna. Vabbè, questo doveva avertelo detto la mamma quando facevi il primo anno di asilo, che ti accompagnava col panierino, sta attenta, quando i compagnetti ti dicono siamo amici, in realtà... Sì, però per un po' ho creduto che invece questa cosa... Credevi nell'amicizia fra uomo e donna, cioè. Sì. Fammi un esempio di friendzone, che è un friendzonato abbastanza doloroso, uno che è uscito sì, male. Sì, con dolore, anche da parte mia, sicuramente. Eh sì, me lo immagino, non ci dormi la notte. Beh, dimmi, dai. No, infatti, io seduco, ho notato, in modo piuttosto cameratesco, ossia ho un atteggiamento e anche un modo di fare piuttosto maschile. Quindi non seduco con pizzi, trasparenze o... E quindi qual è il modo maschile? Andare a fare la pipì insieme? Dai, andiamo insieme a... Ma parliamo di sesso, parliamo di cose... Ma un uomo gli parli di sesso un po' s'attizza, che gli dici? Beh no, allora diciamo che parliamo anche di cose proprio più becere, terra. Come la pubblicità, sento quello strano prurito intimo e dici sì... Bravissimo, oppure, ma sai, ma guarda, penso che lui si apre magari a me, il povero... Ma se ti apri tu a lui, gli racconti questo, ci rimane un po' sconvolto, lo capisci? Ci rimane sconvolto. Ma tu lo fai con consapevolezza o inconsapevolmente? Inizialmente no, adesso sì, ho capito. Ti diverte? Sì, sono un carnefice, una carnefice. Vabbè, mica c'è niente di male. Questa è una trasmissione che bisogna far uscire un sommerso sociale. Oggi la friend zone esiste anche nel mondo, non solo dei bambini che ci scherzano, gli adolescenti. Gli adulti, allora, è il gioco della friend. Allora, tu sei una friend zone attrice, quindi sai tutti gli esempi, i segreti, le... Sì. Perfetto, allora fermona, resta in ascolto. Ti faccio ascoltare un frenzonato dei tanti che stanno chiamando, perché i servi della gleba naturalmente sono quelli che più hanno facilità di descrivere il problema. Le donne sono un po' più reticenti. Dagli dei consigli poi. Lorenzo. Buongiorno a tutti voi e anche alla signorina che è in comunicazione. Che in questo momento, però, scusami, Lorenzo, è la tua ancora di salvezza. Sì. Tu racconti adesso la tua dolorosa storia. Io sono stato sia vittima sia che carnefice. Comincia dalla vittima. Ma vittima, attenzione, fino a un certo punto, perché poi io ho la mia teoria suffragata dalle prove. Fammi un esempio. Ovvero, sedotto e abbandonato, perlomeno io mi sentivo sedotto da questa persona e tanti tanti anni fa, perché adesso ne ho più di 40, ci provo spudoratamente e naturalmente vengo rimbalzato. E lei ti dice, ma come, pensavo che eravamo amici? No, dice, guarda che però io sono già con un altro. Vabbè, il problema è quello. Dico, io mi leggo le ferite e me ne vado. Tu gli hai detto, per me non è un problema. Provare l'ultima cosa, per me non è un problema, gliel'hai detto. No, niente, vabbè, ci sono rimasto male. Amen. Sono tornato a fare le mie cose in discoteca con gli amici e le amiche. E però, mentre io ho fatto la mia bella vita, quindi frequentando altre donne... Ma questa non è friend zone, però no, scusa, questo no, è rimbalzo. Attenzione. È rimbalzo, un'altra cosa. Sì, no, attenzione, ma infatti non ho mai permesso che mi venissero messi i piedi in testa. E allora non siamo frenzonato, dai. E ho aspettato che passasse il cadavere del mio nemico. Poi quando è arrivato, naturalmente l'ho sedotta e l'ho abbandonata. Vabbè, non è friend zone, dai, è millantato. Claudio, è vero, non si tratta di friend zone questa, no? No, questa è perfidia. È perfidia, che c'entra, no? Viene... Questa è cattiveria pura, che c'entra, dai. Ci ha provato con una, gli ha detto no, poi ha aspettato, lo lasciasse il fidanzato, si era fatto vivo, ha preso il momento di debolezza, cioè, lo sai, c'è quella zona in cui uno è abbastanza indifeso nel momento dell'ascito, certo. Che andrebbe anche con, che ne so, col primo che passa, pur di dimenticare. Ma è brutta questa cosa. Posso consigliare a Lorenzo? Che se la donna, la ragazza che frequenti, inizia il rapporto mettendo subito le mani avanti dicendo guarda che tra me e te non ci sarà mai nulla, saremo buoni amici, magari ti innamorerai anche di me, ma tu in sostanza non te la darò mai, quindi mettiti le... Ma chi è che lo dice questo, però, tesoro? Non lo dice mai nessuno all'inizio. No, io lo dico. Tu lo dici? Cioè, lo dico. Vabbè, un amico non può dirglielo se non c'ha... Devi capire, almeno deve esserci un tentativo di approccio. E se no esci con un amico, ti porta al cinema, dici io non te la darò mai, e lui dice ma chi te l'ha chiesta? C'è anche questo. Beh, io te lo dico, tu non me l'hai chiesto, te lo dico per mettere le mani avanti, per evitare malintesi, sì, che poi potrebbe... Un uomo ti direbbe, ma scusa, chi ti credi d'essere, ma chi te l'ha chiesta? Scusa, bastava uscire, no? Dico, sai, io conosco voi uomini, sapete che poi alla fine capitate sempre... Vabbè, ma guarda, passi per presuntuosa, uno dice ma ti sei guardata, poi dopo ti distruggi, ti ammazza l'ego, scusa, Sì, ci sto combattendo un po'. Ma secondo me sbaglio, non voglio dare consigli perché ormai per me è una frequentazione troppo lontana nel tempo, ho dimenticato queste cose. Però ti dico onestamente, parti così con un uomo, ci fai una brutta figura, perché l'uomo, anche se morisse, anche se fosse il tipico treppiede che cammina a tre gambe, ti direbbe ma guarda, ti sbagli, scusami un attimo, no? Chi te l'ha chiesta, ma chi ti credi d'essere? Allora, una volta che io lo aspetto al varco e tirerà fuori anche la terza gamba, io dirò, scusa, ma io ti avevo detto che non mi interessava tutto questo. Vabbè, quindi... ma dai, ma perché non si deve far male per forza? Scusa, ma che bisogno c'è? Ma non è meglio uscire rilassati? Esci con gli amici, li capisci subito. Sono quelli simpatici, sì, quelli che ti accompagnano con la macchina, che andate a fare, sì, delle belle passeggiate in montagna, che sono sereni, che hanno le loro fidanzate, che li vedi un po' grassocci, un po' magrolini. Che lo ti sei... devo dire, Gianluca, sono crudele. Sì, però Claudia, essere crudeli, bisogna capire prima o poi verrà qualcuno che ti ammazzerà, capisci? Questo devi pensare. Perché il giorno che tu sarai frenzonata, cosa fai? Beh, penso che mi butterò dal primo cavalcavia, però... No, vivi più serenamente. Ho capito, te ormai ci ha preso il gusto, è bella, la frenzone è stupenda perché vedi la pochezza dell'essere maschile, li vedi lì nel loro brodo di giuggiole e li struggi. Però alla fine ne rimani male anche te, meglio essere un po' più sereni, secondo me. Non hai ragione. Comunque abbiamo ancora frenzonatrici, si è aperta la voragine delle frenzonatrici, però sono i 45, devo interrompermi un istante, rimanete in ascolto, 800240024, ho raggiunto il mio scopo, sto codificando la frenzone nell'età adulta, cosa che ancora nessuno aveva mai fatto. A tra poco. Melog. Stiamo definendo, codificando, creando il codice di comportamento nella friend zone adulta. Massimo. Massimo, salve, buongiorno. Frenzonato o frenzonatore? Frenzonato. Allora, descrivi, perché è importante, da un punto di vista scientifico devo mettere a punto il modello, descrivi le fasi più cruente della tua friend zone. Allora, cominciato già dal liceo, a frequentare, avere tra virgolette amiche, quindi poi ho proseguito. Sì, ma avere amiche non è un problema, è avere amiche e volersele poi trasformare. Amiche che si rivolgevano sempre per principalmente per avere piccoli favori, cortesia, passaggi in macchina, tutte queste cose qui. Vabbè, questo ci sta. Poi uno può essere anche generoso con le amiche, che vuol dire? Io pensa, non ti dico manco le cassette Geberit che ho pulito alle amiche, i rubinetti che gli ho. Guarda, uno se un'amica ti chiede un favore, lo fai, non è un problema. Però poi dopo ho cominciato a frequentare per un periodo della mia vita, io ho 60 anni, diciamo tra gli anni 80 e 90, un ambiente un po', diciamo, dello spettacolo, quindi ho avuto amiche molto belle che erano irraggiungibili e quindi ero disposto per uscire con loro, accompagnarle ai locali, discoteche. Ma lì non è che non è friend zone, lì è servo della gleba, era il loro servo della gleba. Alla fine servo della gleba perché comunque mancava, secondo me, friend zone manca anche di quella parte di, tra virgolette, coraggio. Nel senso che rimane sempre un po' una base di... Ma lì era un uomo trastullo, ti chiamavano, dice, caro, mi accompagni tu, zia, andavi lì sperando, certo, che al ritorno... Fino a che una di queste, una delle, diciamo, tra virgolette, amiche, mi ha chiesto di accompagnarla perché doveva abortire, e lì mi ha raccontato che era stato con quest'uomo sposato, alla fine io gli ho detto, ma che ci vai a fare? E lei mi dice, sì, ma sapessi come tromba. E lì è stata la goccia che... Cioè, lei ha capito, in realtà è doloroso. Ma che cazzo era la storia? Ma guarda che nella friend zone accade una cosa tipica, la frase tipica della friend zone. Cioè, mi accompagni in farmacia, ho quel prurito intimo che dà tanto fastidio. E il frenzonatore tanto dice, no, te la vado a comprare io la cremina. Questo fa il frenzonato, capito? Bravo, ma fermo lì, resta lì, resta in ascolto, abbiamo un'altra maestra di friend zone. Maddalena, buongiorno. Io più che maestra di friend zone, di essere frenzonato, semmai. Ah, sei stata frenzonata? Oh, veramente una donna che ammette la frenzone. No, beh, infatti, non so se può valere perché io sono gay, quindi comunque sono stata frenzonata da... No, questo è importante, però. Ma esiste la frenzone anche, diciamo, fra persone dello stesso genere? Altro che... Racconta, questo è un tema sconosciuto. Ma sì, perché io ho cominciato a essere molto servizievole, diciamo quasi uno zerbino, con una ragazza che per me era molto bella e sulla quale io avevo ovviamente delle intenzioni, e lei prima è diventata molto amica, poi in questo caso si direi che c'è del dolo da parte mia perché avevo con intenzioni, però insomma, ne ha approfittato largamente. Sì, però aspetta Maddalena, c'è una circostanza che complica un po' le cose. In una coppia, diciamo, dello stesso genere, non è detto che lei magari aveva qualcosa di nascosto, di inconfessato, ma magari poteva sempre dirti: no, ma io non vado con le donne, a me piacciono gli uomini, questa cosa tipica. Sì, ma in realtà andava con tutti e due, quindi... Te l'hai già documentata, te l'hai documentata sulla sua... Conosciuti in un locale gay, quindi non ci si poteva sbagliare. Ci vado solo per curiosità. Sì, è vero, qualcuno dico fa. Così. È vero, comunque... Oppure io soltanto dalla vita in su, capito? Queste cose tipiche. Certo, come no. Comunque sì, io mi vergogno un po' perché per il mio orgoglio è un duro colpo, però ammetto che io lì sono stata proprio frenzonata perché ho fatto... proprio l'amica, e lei se ne è approfittata tanto, poi come si dice in gergo volgare, facendotela annusare, poi però all'ultimo momento ritirandosi. Anche lì perché fanno... erano reciproco a farla annusare praticamente, favore. No, da parte mia no, perché vabbè, comunque diciamo che appunto si è un po' approfittata di questa cosa, dopodiché io però a un certo punto mi sono resa conto che era letteralmente un parsita, cioè che al di là di una possibile storia d'amore che vabbè avevo già capito che non ci sarebbe stata, ma questo suo modo di fare non era nemmeno da amica. Però Maddalena, proprio... mi conforti sul fatto che la friendzone è un termine, è un modo di essere assoluto, una condizione dell'anima assoluta, non ha limiti e soprattutto non è condizionata poi dalla, fra virgolette, regolarità della coppia, quindi la friendzone può avvenire comunque. Altro che... questo è importante. Ferma lì. Infatti è vero. Sì. Ferma lì. Marco, buongiorno. Marco, buongiorno a lei. Lei è frenzonato? Frenzonato? Frenzonato netto, proprio pieno. Descrivilo. Descrivi come? Vuol dire essere sempre pronto a qualsiasi evenienza. Andiamo a prendere un certificato in farmacia, sì, pronto. Andiamo a fare la spesa, a prendere, che ne so, il budino, immediato. Tantissimi anni fa, 20 anni fa, ma la situazione è più divertente. Ma tu che speravi alla fine? Che alla fine, dopo tutte queste cose, ci fosse stato un premio? E che cosa dovevo sperare, Nicoletti? Cioè, ma tu l'avevi detto, hai fatto capire, avevi mostrato. Ho fatto capire in tanti modi, ma essendo la più bella della classe, naturalmente ne avrei avuto in centinaio, così. Cioè, ma allora perché ti incammini in un terreno che sai già che non arrivavi alla fine? Perché c'era perdi speranza, tempo? C'era speranza, c'era speranza, Nicoletti, ma la cosa più tragica, più divertente ora, ma allora più tragica, invito a casa sua ad un certo punto, eravamo piccoletti, una storia di 20 anni fa, a casa sua lei mi accoglie in accappatoio bianco appena uscita dalla doccia. Io onestamente ero un misto tra, voglio dire, no, tra emotivamente sconvolto, certo, arriva la chiaro. Nonna. Modalità tre piede, diciamo, ecco. Arriva la nonna e grida verso di lei: ma che state facendo così, eccetera, rompe il sogno, e a quel punto chiaramente sogno svanito, finito tutto. Però lei è una colpa, lei era disposta a quel punto, vedi, avevi raggiunto il tuo obiettivo, se non entrava la vecchia in mezzo, diciamo era fatta. Maledetta vecchia, Nicoletti. Le donne servono a questo. Massimo. Sì, abbiamo un minuto, magari in un minuto puoi definire un'altra situazione così abbiamo un quadro più completo. No, è che quella della friendzone è una categoria, quindi non è che poi aspetta il momento giusto per assestare il colpo, rimane in quella categoria. Oh, bravo, quando si entra nella friendzone non c'è via d'uscita. Non c'è via d'uscita e cambiano i personaggi. È una malattia incurabile, sei malato terminale, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, rimarrà in quella categoria finché... Non arriva il momento di capire che c'è un errore di fondo e che devi ricominciare. Diciamo che dalla friend zone si esce soltanto la porta in cui si è entrati, lasciandosi alle spalle tutto. Non c'è una via felice, non c'è un'evoluzione. Chi è nella friend zone, la friend zone rimane, a meno che decida un giorno all'altro di abbandonare il suo ruolo di uomo trastullo o di donna abbandonata e incompresa. Alla prossima!